Europa 24. Un saluto da Anna Migliorati. L'Euro Summit straordinario ieri sera a Bruxelles si è chiuso con i leader che si sono dati appuntamento a giovedì per la riunione del tradizionale Consiglio Europeo di giugno, fiduciosi di conseguire l'accordo sul salvataggio per la Grecia. La proposta di Atene, che sarà nuovamente all'esame dell'Eurogruppo domani, soddisfa ormai al 90% le richieste dei creditori, soprattutto nel settore delle pensioni e del sistema IVA, dove il governo greco si era impuntato nelle ultime settimane. Ma la bozza di accordo dovrà passare anche altri cruciali esami. Una volta trovato l'accordo tra Grecia e creditori internazionali, quattro parlamenti europei, nell'ordine la Germania, l'Olanda, la Finlandia e l'Estonia, dovranno ratificarlo. Poi sarà la volta di Atene, dove l'ala sinistra di Siriza minaccia battaglia contro una manovra che, seppure ha risparmiato pensioni e dipendenti pubblici, è comunque recessiva, perché aumenta le tasse sulle imprese e i contributi previdenziali per tutti. La partita dunque non è finita e si gioca nei rispettivi parlamenti di Berlino e Atene, alfa e omega di questa Europa stanca, sì, di austerità, ma ancora indecisa sulla via nuova da intraprendere. Se la crisi greca servirà a tracciare un percorso di sviluppo per tutti, allora non sarà stato un calvario inutile i 5 anni di sacrifici passati dal popolo greco. Se invece si daranno aiuti, nuovi prestiti, senza però investimenti, allora si soffocherà anche questa timida speranza di una ripresa continentale. Vittorio Darolle, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E questa mattina un pressante appello è arrivato da Bruxelles dal presidente del gruppo socialdemocratico al Parlamento europeo, Gianni Pittella. Se l'accordo non è ancora raggiunto e firmato e siglato, significa che ci sono alcuni ancora elementi che giocano un ruolo di disfattismo, che vogliono umiliare Atene, che pensano che la partita è se vince Atene o vince l'Europa. Ma non è questa la partita. La politica oggi ha un interesse, quello di difendere e tutelare i cittadini greci e europei sarebbero danneggiati enormemente da un non accordo. Questo è il punto. Intanto la BCE interviene ancora in attesa dell'accordo politico, ha alzato la liquidità d'emergenza fornita dalla banca centrale greca agli istituti ellenici a circa 89 miliardi di euro. Il debito complessivo della Grecia verso il Fondo Monetario Internazionale ammonta ormai a circa 35 miliardi di euro, secondo i calcoli del Financial Times. Atene è così il più grande debitore del Fondo Monetario. E riuniti questa mattina a Lussemburgo sono i ministri per il Consiglio Affari Generali, proprio per preparare il vertice di giovedì e venerdì. In agenda anche il dibattito sull'ex Repubblica Jugoslava di Macedonia, anche alla luce dell'altra questione che dovrà essere affrontata, quella dell'immigrazione. Settimana cruciale, insomma, per Grecia e immigrazione, per l'Europa, ma c'è anche altro. Lanciato nella notte Sentinel 2, il secondo satellite europeo del programma per monitorare lo stato di salute della Terra. Attention pour le décompte final. 5, 4, 3, 2, 1, top, allumage e décollage, VV05. Ha illuminato la notte e disegnato un arco tra le nuvole prima di scomparire rapidamente alla vista. Alle 3.51 ora italiana, Sentinel 2 è decollato dalla base di Kourou nella Guyana francese. Il lancio è avvenuto a bordo di un lanciatore Vega e si è concluso 55 minuti dopo, quando la sentinella spaziale è stata lasciata in orbita a circa 800 km di altezza. Per i prossimi 7 anni Sentinel 2 mostrerà lo stato di salute della Terra in tempo reale attraverso i suoi colori. Grazie ai suoi occhi high-tech scruterà la superficie del pianeta in 13 diverse bande spettrali, pacchetti di lunghezze d'onda che vanno dal visibile fino al vicino infrarosso con una precisione senza precedenti, dicono dall'Agenzia Spaziale Europea. La costruzione del satellite, che il prossimo anno sarà affiancato dal suo gemello Sentinel-2B, è opera di una cordata di 60 industrie europee, tra cui una decina di italiane, mentre il lanciatore Vega è stato realizzato da Avio negli stabilimenti di Colleferro in provincia di Roma. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 ore. È tutto per l'Europa, almeno per ora. Europa 24, come sempre, torna con Effetto Notte. Europa 24. In collaborazione con Euronet Plus.